Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora i temi di questa giornata economico-finanziaria, le borse sono tutte molto buone, quasi tutte. Il Belgio per esempio è in difficoltà, perde il 5,9%, e anche Amsterdam è negativa di un punto percentuale. Devo dire che non sta arrivando una grossa mano dall'America. L'America in questo momento è negativa di mezzo punto percentuale, ma il Nasdaq soprattutto perde il 2,5%. Di America ci occuperemo subito, perché oggi paradossalmente il piano europeo di garanzia, salvataggio delle banche, garanzia sui depositi, ingresso nel capitale delle banche, seppure temporaneo, nazionalizzazione in alcuni casi delle banche come in Gran Bretagna, è un piano che in America viene apprezzato più del piano lanciato dall'America, anche perché l'America ha un piano da 700 miliardi di dollari, 850 alla fine. L'Europa ne ha messo in piedi uno che ne vale di più, che supera i 1.000 miliardi di euro. E oggi dall'America è arrivata la notizia dell'intervento dello Stato in 9, per il salvataggio di fatto di 9 banche americane. L'euro è relativamente forte, 1,36,5, però le altre borse vanno bene. Parigi mantiene ancora l'1,4% di rialzo, Francoforte l'1,3%, Londra più 1,9%. Questa mattina Tokyo aveva chiuso con il rialzo più forte della sua storia, più 14% per l'indice in una seduta. Milano in questo momento è la migliore in Europa, guadagna il 2,6% sull'S&P MIB, il 2,5% sul MIBTEL. Particolarmente bene Seat Pagine Gialle, più 13%, Banco Popolare più 9%, Banca Popolare di Milano più 8%, e poi Pirelli, Fastweb e Prismian, ma anche Autogrill, che guadagnano il 6%. Bene anche Unipol più 5,4%, Fiat più 5%, Enel più 4,2%, poi a seguire Parmalat e Mondadori più 4%, Atlantia e Unicredito più 3,5%, Alleanza e Bulgari più 3,3%, Mediolanum, Buzzi Unicem ed Eni più 3,2%. Negativo A2A meno 3,9%, Fondiaria meno 2,9%, Geox meno 2,6%, Impregilo meno 2%, ST Microelectronics perde l'1,3%, Snam Rete Gas l'1,2%. L'ultima nota vale per quello che riguarda il petrolio, aperto in leggero rialzo a $83,4 al barile. Molti messaggi che sono arrivati dopo la notizia che ieri abbiamo riportato. Insomma, è molto semplice il ragionamento, soprattutto per il sto ridendo perché alcuni di voi dicono chi se ne frega del Belgio. No, è per segnalare che lì qualche problema c'è. Se ricordate bene, in Belgio la banca Fortis, che è una banca franco-belga, qualche problemuccio il gruppo Dexia, scusatemi, che è un gruppo franco-belga, qualche problemuccio aveva avuto. Comunque, tornando a noi, molti hanno scritto sottolineando la cosa assurda che ieri riportava l'Ansa e che noi vi abbiamo letto. La cosa assurda è che il prezzo del petrolio è tornato ai livelli di un anno fa, esattamente un anno fa, $83-82 al barile. Il prezzo della benzina, ma soprattutto il prezzo del diesel, non si capisce perché, e io mi arrendo, è ancora più alto invece rispetto a un anno fa. Un anno fa costava 1,32, adesso per quanto sia sceso siamo a 1,39. Ce lo spiegasse qualcuno, ci farebbe contenti. Il motivo per cui il Belgio va così male è proprio il gruppo bancario Dexia, che oggi sta perdendo in borsa il 23%, questo per via di voci di una nazionalizzazione di fatto del gruppo, ossia lo Stato belga e quello francese a questo punto si compreranno una fetta così consistente della banca e del gruppo bancario da nazionalizzarlo, di fatto come è avvenuto in Gran Bretagna ieri con la Royal Bank of Scotland, tanto per essere espliciti, dove, visto che il governo britannico se ne è comprato il 60%. Rapidi, 349-238-6666 per i vostri sms, Le altre notizie di questa giornata economico-finanziaria, parleremo quindi oggi di America, ma anche dei costruttori italiani, cioè dei settori che iniziano a soffrire per questa stretta sul credito. Poi l'inflazione, dato di oggi, in calo, anche se i prezzi di pane e pasta non così in calo. E ancora parleremo poi del tema energetico, perché domani a Bruxelles si affronta il tema delle politiche energetiche a livello europeo. L'Italia è sul piede di guerra perché la proposta europea costerebbe tantissimo al nostro sistema di impresa, 20 miliardi si dice di euro. 349-238-6666 dunque. Allora rapidamente le notizie in breve. Allora, inverte la rotta, dicevamo, il prezzo del petrolio che ha aperto 83,4 è sceso 81,31, mentre in tema di mutui la Russia ha stanziato 9 miliardi di dollari per i colossi del petrolio. È pazzesco vedere come, insomma, colossi come Gazprom, Lukoil, Rosneft siano in difficoltà con gli indebitamenti, eppure lo sono nonostante il record del petrolio. Le quattro compagnie sono esposte con le banche per circa 80 miliardi di dollari nel totale. E allora di clima parleremo più avanti. Oggi il numero uno dell'Unione Europea, ossia il Presidente della Commissione Barroso, è intervenuto soprattutto sulla crisi, adesso ne parleremo. Però per quello che riguarda la parte ambientale, il tema a cui accennavo, ha detto di sperare che l'accordo sulla nuova politica energetica e di emissione di CO2 dell'Europa possa arrivare entro dicembre, ma ha detto che non c'è nessuna flessibilità sugli obiettivi. E questo come risposta alla posizione italiana, che ritiene insostenibili gli oneri per l'industria e per l'economia del nostro paese, gli oneri che l'Europa porrebbe con questo piano. È sceso anche l'Euribor oggi, non certo come il tasso ufficiale di sconto, ma al 5,24% con dal 5,3%. Scende lentamente, ma insomma almeno scende. Per quello che ha a che fare invece con la crisi finanziaria, oggi anche Hong Kong ha garantito tutti i depositi bancari utilizzando le proprie riserve in valuta estera, mentre se da un lato Dexia non se la passa bene, anche la banca franco-belga Fortis riceverà 14 miliardi di euro dalla vendita di asset ai governi belga e olandese. La banca Fortis non è franco-belga, ma c'è un errore di agenzia, è olandese e belga. Ma al rientro da questa notizia, Fortis in borsa ha perso il 64%. L'economia reale, come si dice in gergo, in Germania l'indice sulla fiducia è sprofondato a meno 63 punti e a questo punto il centro studi per quello che riguarda l'economia tedesca, un centro studi che ha riunito, in realtà è un'elaborazione di 8 grandi centri studi tedeschi, ha detto attenzione, l'anno prossimo la crescita in Germania sarà molto vicina allo zero, quest'anno dovremo fare un più 1,8%, ma un più 0,2% appena nel 2009. È cresciuta l'inflazione in Gran Bretagna al 5,2%, in Francia invece l'inflazione è scesa al 3%. E anche in Italia oggi è arrivata la conferma del dato preliminare, l'inflazione è scesa al 3,8% contro il picco del 4,1% di agosto. A questo punto nei vari settori vale la pena però ricordare che pane e pasta continuano a tenere alto il livello di inflazione, più 8,6% il pane, più 24% la pasta. Mentre la spesa, l'inflazione sulla spesa più frequente, quella che si chiama spesa quotidiana, è scesa al 5,4% nel mese di settembre. parleremo più avanti, perché insomma la Coldiretti oggi in una nota dice che non è giustificato l'aumento della pasta, visto che il grano duro è praticamente come prezzo si è dimezzato ed è sceso intorno ai 28 euro per azione. Anche qui attenzione però a quanto pesano pasta e pane nel paniere complessivo, sono elementi importantissimi, diciamo sul paniere complessivo incidono relativamente poco in quello che compone l'intera inflazione. Decisa frenata delle entrate fiscali ad agosto, il gettito tributario è stato pari a 31 miliardi contro i 34 del 2007 e quindi da inizio anno l'aumento delle entrate fiscali è appena del 3,5%, quindi quasi la metà rispetto ai primi 7 mesi dell'anno prima. Qui è ancora presto per capire se sia dovuto alla frenata probabilissima del gettito IVA come conseguenza di un rallentamento economico o anche da una minor capacità di contrasto sull'evasione, come scrivono alcuni, dovuta ad alcuni provvedimenti, penso agli assegni circolari o al registro contabilità fornitori. Vedremo quando usciranno i dati, quando sarà possibile scorporarli, di capire quanta parte è dovuta al rallentamento economico, quanta eventualmente a un minor contrasto dell'evasione fiscale. Dopo 9 anni consecutivi di crescita, il settore delle costruzioni ha segnato il passo, ne parleremo più avanti, meno 1,5% nel 2009, meno 1,1% nel 2008, però l'ANCE, per voce del suo presidente Paolo Buzzetti, ha detto non ci sarà la bolla immobiliare. E adesso il primo tema di questa puntata, ossia la crisi finanziaria, bancaria, il fronte americano, visto che ieri abbiamo dedicato praticamente tutta la puntata al fronte europeo, era la notizia più importante. È un piano, quello europeo, che qualche effetto lo sta ottenendo sui mercati e di fatto l'Europa si è mossa in maniera molto molto massiccia e direi una volta tanto anche con un'azione concertata. Vediamo di capire che cosa sta facendo invece un'America in piena campagna elettorale. Dicevo dell'Europa, perché l'Europa insomma ha messo in campo quasi anche un po' più di 1.000 miliardi di dollari, ha dato garanzie su tutto. Oggi tra l'altro la Commissione Europea ha detto che per i paesi membri dell'euro sarà possibile avere deficit un po' al di sopra, poco al di sopra del 3%. Questo, viste le condizioni eccezionali dell'economia, il patto di stabilità viene reso con quegli adattatori automatici più flessibile. E ancora Barroso, il presidente, ha detto ci sono forti resistenze alla creazione di un regolatore europeo, cioè una grande consob europea che permetta, o perlomeno che cerchi di non si ripetano più le cose viste in questi ultimi anni. E per quello che riguarda l'Europa ha detto vabbè, l'Europa ha fatto uno sforzo senza precedenti, ma non siamo ancora fuori dal tunnel, vediamo la luce in fondo al tunnel, ma non ne siamo ancora usciti. Bisognerebbe chiedere quanto grande questa luce e quanto fioca invece essa sia. La Merkel sui mutui ha detto, ha subito gettato acqua sul fuoco, ha detto la situazione resta immutata e molto seria, attenzione agli eccessi di ottimismo, e noi invitiamo sempre alla calma, così come non ci piace l'allarmismo neanche l'eccesso di euforia. Per quello che riguarda i mutui e la crisi complessiva sui mutui e il nostro paese, il presidente della Consob Cardia, nel corso del suo intervento alla Commissione Finanze del Senato, ha detto l'Italia ha rischi inferiori ad altri paesi. Le autorità di vigilanza sulla trasparenza e correttezza del mercato, come la Consob, hanno adottato tutte le iniziative possibili nell'ambito delle loro competenze, intervenendo con provvedimenti progressivamente sempre più restrittivi volte a limitare la speculazione, in particolare le vendite allo scoperto. Obiettivo degli interventi è stato quello di arginare gli effetti sul mercato azionario di una crisi che ha la sua origine e il suo epicentro altrove, nel sistema dell'intermediazione bancaria. Ulteriori provvedimenti che incidano sull'operatività del mercato dovranno essere concordati a livello internazionale, considerando che i dati disponibili evidenziano per il nostro Paese rischi anche inferiori a quelli che emergono in altri mercati. La totale mancanza di liquidità nel sistema bancario si è tradotto in un'operatività anomala sul mercato azionario, unico mercato che ha assicurato condizioni di reale liquidità durante la crisi. Le vendite sui mercati azionari sono divenute strumenti per creare nicchie di liquidità e per escussioni più o meno formali di garanzie precedentemente rilasciate. Le indagini della Consob consentono peraltro di affermare che gli intermediari più attivi dal lato delle vendite sul mercato azionario italiano sono esteri o di matrice estera. Anche gli ordini di vendita più consistenti ricevuti da intermediari italiani sembrano provenire dall'estero. E allora ancora una nota del presidente della Consob e poi, come detto, ci spostiamo in America. Ha detto il presidente Cardia: preoccupa la scarsa difesa di molti gruppi italiani rispetto a OPA ostili, ossia offerte ostili. Questo vuol dire che i prezzi sono calati così tanto in borsa che comprarsi certi gruppi diventa molto molto vantaggioso. Suscitano inoltre nuove preoccupazioni le conseguenze che la situazione del mercato può avere sull'esposizione delle società quotate a tentativi di acquisizione ostili. Elevate sono infatti le limitazioni attualmente imposte dalla normativa nazionale, più restrittive di molti altri paesi europei, alle capacità di difesa della società, la cosiddetta passivity rule, che impone ai manager delle società bersaglio di non effettuare operazioni che possano ostacolarne l'acquisto. Limitazioni legittime e giustificate in contesti ordinari di mercato diversi da quello attuale. In proposito, mi sento di ricordare che la Consob, nel recepimento della direttiva sull'OPA, ha stabilito la massima apertura ai mercati, cioè il libero mercato necessita di libertà di funzionamento. Però abbiamo constatato che alcuni paesi, in particolare uno, hanno utilizzato degli strumenti regolamentari con i quali hanno potuto chiedere a società italiane di comunicare se avevano intendimento di effettuare interventi in genere OPA su società di quel paese e se la comunicazione delle società italiane doveva essere data entro 24 ore. Questo mi ha lasciato sbalordito. Questo che ho comunicato, questa vicenda e qualche altra considerazione o constatazione che è stata dalla Consob comunicata al governo, porta oggi a rimeditare se non vi sia la possibilità di modificare in senso più restrittivo, a fini unicamente di tutela, non perché non si apprezzi il libero mercato. E poi il presidente della Consob ha aggiunto: occorre conoscere l'azionariato anche quando è sotto il 2% e potrebbero essere adottate delle sanzioni nei confronti delle società che hanno venduto titoli allo scoperto. Allora, questo è il fronte italiano. Tra l'altro l'ex ministro Bersani ha detto di condividere la logica italiana di non aver fatto di non aver dato cifre su quanto ammonterà la copertura. La Gran Bretagna ha detto 380 miliardi, la rete europea di protezione del finanziamento tra banche, l'Olanda 200, la Spagna 100, l'Austria 100, la Germania 500, l'Italia ha detto metteremo a disposizione quanto necessario. L'America 850, ma insomma poca cosa rispetto al piano europeo. Allora, andiamo con ordine. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, buonasera. Buonasera. Dunque, oggi hanno parlato Paulson, Bernanke. Ti farei fare un primo intervento riassuntivo, poi ascoltiamo anche queste voci. Volevo far sentire anche la voce di Krugman, perché insomma di cose ne ha dette il nuovo premio Nobel dell'economia su questa crisi. È vero che Paulson e molti osservatori americani hanno detto: beh, il piano europeo è quasi più bello del nostro, è una gara che non avremmo mai voluto vedere, ma insomma che il piano europeo sia quasi servito da modello? Sicuramente il piano, direi Gordon Brown, attenzione, non europeo, perché la leadership comunque l'ha presa Gordon Brown, il piano inglese è diventato il punto di riferimento sia per l'Europa che per l'America. L'America aveva considerato questa ipotesi, ma per questioni politiche l'aveva dovuto mettere da parte. È stato poi attraverso la leadership di Brown che sono riusciti a far rientrare dalla finestra quello che volevano far entrare dalla porta. Ma una analogia curiosa è che proprio la Gran Bretagna, che è fuori dall'euro, ha poi finito per portare ai paesi dell'euro questa idea, questo piano, è venuta dalla sterlina. la proposta più articolata per riscattare le banche. Quindi l'America azioni privilegio e azioni ordinarie, diciamo, quindi l'ingresso vero e proprio nel capitale. Getto, direi alquanto straordinario, 250 miliardi di dollari hanno già precettato 9 banche, si è cominciato con le grandi, JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of America, ciascuna riceverà un'iniezione di capitale di 25 miliardi e lo riceverà in modo passivo, non potranno obiettare o dire no, grazie, non lo vogliamo, è proprio una imposizione, una richiesta che viene dal Tesoro, i termini sono dettati dal governo americano, bisogna farlo per l'America per restituire equilibrio e stabilità al sistema finanziario, quel che si teme è che nel momento in cui dovesse esserci sull'economia reale il riflesso pesante della recessione, dunque disoccupazione e così via, da qui ai prossimi 6-8 mesi, beh, l'idea è che almeno il sistema finanziario dovrà aver ritrovato la sua stabilità. Quindi è in questo spirito che il piano americano è stato messo in cantiere, è stato annunciato questa mattina, e quando le indiscrezioni sul piano hanno cominciato a girare ieri pomeriggio che il rally in borsa si è trasformato in una corsa sfrenata e record, e oggi infatti, ora che il piano è stato annunciato nei minimi dettagli, l'indice Dow Jones è stabile, sta perdendo circa 29, sta perdendo una... Ah no, scusa, in questo momento è rientrato al rialzo, ho appena controllato. Sì, è un più 0,6%. Allora, Mario Platero, vediamo le misure americane, le misure annunciate oggi sulla falsariga, come tu dicevi, del modello Gordon Brown, quindi lo Stato entra non solo con le azioni di privilegio che non danno diritto di voto, anche con quelle ordinarie, quindi si siede nel Consiglio di amministrazione delle grandi banche britanniche, sulla stessa riga, più o meno, l'intervento americano, il governo è entrato nel capitale di 9 banche. Today there is a lack of confidence in our financial system. Oggi siamo di fronte a una mancanza di fiducia nel nostro sistema finanziario che deve essere superata perché pesa in modo enorme sulla nostra economia. Gli investitori non sono propensi a prestiti verso le banche. Le banche, seppur in buono stato di salute, non sono disposte a prestarsi denaro l'un l'altra, né ai consumatori né alle imprese. Nelle settimane passate gli americani hanno sentito gli effetti di un sistema finanziario congelato. Hanno visto ridursi il valore dei loro investimenti, sono preoccupati per i loro salari e hanno paura di perdere il lavoro. Le famiglie di tutto il paese hanno affrontato lunghe giornate e lunghe notti, dense di preoccupazioni per la loro attuale situazione finanziaria e per quella futura. In un contesto di mancanza di fiducia nel sistema, le famiglie perdono fiducia nella nostra economia e questo è inaccettabile. Il presidente Bush mi ha dato mandato per intraprendere qualsiasi passo necessario per ristabilire la fiducia e la stabilità sul nostro mercato. 10 giorni fa il Congresso ha fornito al Tesoro strumenti nuovi e stiamo lavorando duramente per far sì che finiscano le distorsioni sul mercato. Oggi stiamo prendendo importanti decisioni per proteggere l'economia statunitense. Decisioni che non avremmo mai voluto prendere, ma che dobbiamo prendere per riportare fiducia nel nostro sistema finanziario. Oggi annuncio che il Tesoro entra nel capitale di un certo numero di banche. Lasciare le imprese e i consumatori senza accesso al finanziamento è totalmente inaccettabile. Quando il finanziamento non è disponibile, diminuiscono i consumi e ciò porta a un taglio dei posti di lavoro. Per evitare tutto questo, dobbiamo ripristinare la fiducia nel nostro sistema finanziario. E le banche si chiamano Bank of America, di cui il Tesoro americano comprerà 25 miliardi, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon e State Street. 250 miliardi di dollari di azioni verranno comprate dal Tesoro americano. Mario Platero, molti ascoltatori dicono, vabbè, anche in America si è andati via via a stringere verso una nazionalizzazione di fatto, per quanto temporanea, dei grandi colossi bancari, quelli che non sono scomparsi. A questo punto diventa anche un po' così tragica la situazione di Lehman Brothers, l'unica banca che non, che non hanno voluto salvare. Ti chiedo quanto durerà. Beh, abbiamo delle date fino al 2009, questa è la prima scadenza. I 25 miliardi di dollari sono per ciascuna di queste banche, e quindi grosso modo 100 miliardi di dollari in questa prima tranche per le prime 9 banche, 110 forse, ma gli altri 150-140 miliardi che restano andranno a migliaia di banche in tutta America. Quindi si è prima cercato di stabilizzare il sistema con le più grosse, quelle che sono il primo punto di movimento della liquidità, poi piano piano si andranno a coprire le altre banche. Azioni privilegiate, dicevo, per una serie di motivi, perché intanto non hanno diritto di voto, perché hanno la possibilità di portare un interesse e dunque è già stabilito un interesse del 5% per i primi anni, che potrebbe salire gradualmente fino al 9%, dunque non capitale di rischio assolutamente gratuito, ma capitale che viene in qualche modo già pagato, una formula usata da Warren Buffett quando entrò in Goldman Sachs, ricordiamolo, i 5 miliardi portavano addirittura un interesse del 10%, sempre in azioni privilegiate. Ma c'è anche un altro aspetto: Mitsubishi, che con 9 miliardi entrava nel capitale di Morgan Stanley, ha voluto avere delle garanzie che non ci fosse una diluzione della sua partecipazione con l'ingresso dello Stato. Tutto questo è stato discusso nel fine settimana e la formula di tecnica dal punto di vista delle azioni privilegiate consente in effetti di evitare la diluzione di investitori come Mitsubishi, ma anche di futuri investitori che saranno chiamati a rafforzare il capitale di queste istituzioni. Chiaro. Dunque un piano complesso, un piano molto articolato che ha un suo contrappunto nell'intervento della FDIC, la Federal Deposit Insurance Corporation, sì, l'agenzia che garantisce i depositi. Ebbene, la FDIC di fatto garantirà per un periodo di tempo depositi illimitati, non soltanto i 250 mila dollari, ma si espone ovviamente molto di più, questo per tranquillizzare i correntisti, per tranquillizzare soprattutto le aziende, piccole e medie aziende che possono avere dei conti. Mario, in una battuta, perché siamo con i tempi strettissimi, come è avvenuto in Europa questo ingresso dello Stato nelle banche, che ripeto, attenzione, non equivale semplicemente a spesa pubblica, perché la spesa pubblica non la rivedi più indietro, pensioni, stipendi e quant'altro, questi sono investimenti azionari, un domani quando gli Stati usciranno da queste banche venderanno anche la loro quota, non è la stessa, bisogna vedere se quanto ci avranno rimesso nella quota, ma non è la stessa cosa della spesa pubblica. Ma ti chiedevo, Mario, come in Europa il governo americano poi caccerà i manager che non hanno saputo gestire e soprattutto obbligherà le banche a mantenere aperti i rubinetti alle imprese, perché sennò tutto questo sforzo non serve a nulla, imprese e cittadini mutuatari? No, ma hanno imposto che non ci siano dei golden parachute, che non ci siano dei compensi eccessivi per i manager, quindi ci sono delle regole automatiche che entreranno in vigore, più morbide forse di quelle che voleva il Congresso, ma comunque ci saranno delle eliminazioni. Noi vi diamo il capitale, voi dovrete rinunciare a qualcosa. E poi a tenere aperti anche i rubinetti verso correntisti e imprese. Grazie a Mario Patero in collegamento con noi da New York. Ben Bernanke, numero uno della Federal Reserve, oggi nel suo intervento ha detto: attenzione, gli aiuti resteranno e continueranno finché il sistema finanziario non sarà tornato in piedi, come dire, adesso è cascato per terra, e in America sarà tornata la prosperità. Le sfide attuali nel sistema finanziario e in economia sono grandi e complesse, ma credo che le decisioni prese oggi ci aiuteranno a superarle. La nostra strategia continuerà ad evolvere in linea con i nuovi sviluppi. Non ci sarà mai un allentamento su questo fronte. Non ci fermeremo finché non raggiungeremo l'obiettivo di riformare il nostro sistema finanziario e riportare la prosperità nella nostra economia. In passato la Federal Reserve ha usato i suoi poteri per aiutare l'economia a superare periodi difficili. Le banche centrali di tutto il mondo hanno collaborato in un modo mai visto prima per dare vigore all'economia. Continueremo a fare questo. Tuttavia, è giunto il momento per soluzioni a più ampio respiro. La storia ci ha insegnato che spesso l'intervento dello Stato in periodi di crisi è arrivato troppo tardi, quando molte istituzioni finanziarie sono già insolventi o vicine ad esserlo. Attendere troppo tempo prima di intervenire implica in seguito un onere maggiore, oltre che amplificare gli effetti negativi della turbolenza su famiglie e imprese. Questa non è la situazione che viviamo oggi. Fortunatamente il Congresso e il Governo hanno agito in tempo, quando ancora le grandi istituzioni finanziarie erano in grado di svolgere la loro funzione fondamentale di fornire credito all'economia. Considero positivo il fatto che la crisi abbia avuto una risposta non solo a livello nazionale, ma globale. Come in tutte le crisi del passato, all'origine c'è una mancanza di fiducia nel sistema finanziario e nel mercato, che a cascata si ripercuote negativamente sulla disponibilità di credito e sul valore del risparmio. Le azioni odierne hanno l'obiettivo di ristabilire la fiducia nelle nostre istituzioni e nei mercati e di rafforzare la capacità degli istituti di prestare denaro alle famiglie americane e alle imprese. Questa è la parte del programma dedicata all'iniziativa americana, oggi devo dire più forte di quella europea. Adesso le informazioni per chi è in viaggio, poi i mercati. Buona la chiusura soprattutto a Milano, più 3,6%, mentre va malissimo non solo Dexia ma anche Gruppo Fortis e il Belgio è l'unica borsa negativa, meno 4,8%. Allora, le borse, a parte A2A e SPA che perde il 4,6, Fondiaria perde il 4, Geox il 3,3, Impregilo l'1,3, Snam l'1,1 come Steam Microelectronics, Finmeccanica che perde lo 0,6%, tutto il resto è positivo, Milano tra le migliori, più 3,6% sui due indici, Seat più 14, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano più 9%, Prismian più 7,6, Unipol più 7,1, il 7% lo guadagna anche Enel, il 6% è il rialzo di Pirelli, Ubibanca, Fastweb, Autogrill, Fiat più 5, Telecom più 5, Unicredit più 4,6, il 4% lo guadagna anche Eni, il 3% è il rialzo di Mondadori, Buzzi Unicem, Lottomatica, Parmalat e Alleanza, ma anche Atlantia, Saipem e Intesa. Paolo Paronetto, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Partiamo dai rimbalzi, le crescite più forti, quindi Seat, Banco Popolare e Banca Popolare di Milano, di nuovo Italease sotto i riflettori oggi in borsa. Le spiegazioni. Sì, Seat Pagine Gialle è stata protagonista di tutta la seduta, ha guidato i rialzi tra le blue chip fin dall'avvio con numerose sospensioni per eccesso di rialzo. Le motivazioni derivano dal fatto che il mercato è iniziato a speculare su una possibile operazione straordinaria sulla società, come il lancio di un'OPA da parte dei fondi azionisti finalizzata al delisting. E si è infatti appreso che i fondi hanno chiesto alla Consob che cosa succederebbe se creassero un veicolo in cui far confluire tutte le loro rispettive partecipazioni nella società, domanda a cui la Consob ha risposto dicendo che in questo caso scatterebbe l'obbligo dell'OPA. Nonostante poi gli stessi fondi abbiano precisato che al momento non intendono realizzare nessuna operazione di riassetto, il mercato ha visto in questo scambio di comunicazioni con la Consob il segnale che fosse qualche operazione straordinaria è allo studio, spingendo i titoli al rialzo. È stata una giornata positiva a Milano anche per l'intero comparto bancario, che continua il rimbalzo avviato ieri dopo i pesanti tonfi della scorsa settimana. A guidare i rialzi sono stati, come ricordavi tu, il Banco Popolare, che ha chiuso a più 9,63% riavvicinando i 10 euro, e la Banca Popolare di Milano, che ha chiuso a più 8,4%. Entrambi gli istituti di recente hanno rassicurato il mercato sui livelli di patrimonializzazione, e da quanto emerso anche su base a indiscrezioni sia riferite all'esito dell'ispezione della Banca d'Italia nel Banco Popolare sia di odierne riunioni in Banca Popolare di Milano, sembra che i coefficienti patrimoniali escludano ogni necessità di ricapitalizzazione e che quindi le banche stiano solide. Quindi questo è lo scenario sui titoli bancari. Oggi il caso europeo, forse vale la pena ricordarlo, Fortis ha perso il 72%, Dexia molto male, oltre il 20%. Cioè, le difficoltà più grosse le hanno queste due banche, una anglo puoi dargliela. Una franco-olandese, franco-belga e l'altra belga-olandese. Sì, certo, Dexia è stata inseguita da tutto il giorno da voci di necessità di una nazionalizzazione dell'istituto, che sono state smentite qualche minuto fa, ma gli ordini di vendita non si sono arrestati, hanno spinto il titolo in ribasso del 15%. Quanto a Fortis, invece, il titolo è rientrato oggi in negoziazione dopo una sospensione durata 6 giorni in seguito all'operazione che ha visto la nascita della nuova Fortis Holding dopo lo smantellamento del gruppo belga-olandese, e oggi il titolo è stato quindi la prima giornata di ricapitalizzazione, aveva saltato tutta la settimana nera appena conclusa e quindi in un'intera seduta ha pagato il prezzo degli scivoloni dei mercati perdendo il 77%. Ancora su altri titoli oggi in borsa, Edital Lease, Banco Popolare, Seat abbiamo detto. Fiat, le dichiarazioni di Marchionne le abbiamo sentite, erano questa mattina anche nel nostro GR Economia, insomma domani avremo i dati europei, le attese, il mercato scommette su una Fiat che avrà dati migliori della media delle concorrenti in Europa, per quanto il mercato non sia certo florido in questo momento quanto a vendita auto, vorrei anche vedere vista la situazione. Sì, esattamente, anche Fiat oggi ha continuato il recupero guadagnando oltre il 5% dopo le flessioni che l'avevano portata la settimana scorsa sotto quota 7 euro. Domani, come ricordavi tu, saranno rese noti i dati sulle immatricolazioni in Europa, il mercato prevede che la Fiat faccia meglio del resto del settore e quindi possa guadagnare quote di mercato. C'è da dire anche che il settore internazionale, il settore auto, che oggi in Europa ha chiuso in generale con un rialzo superiore al 3%, è sotto i riflettori anche per le voci che provengono dagli Stati Uniti, dove ieri sia General Motors che Ford hanno chiuso con un rimbalzo significativo superiore al 30% sulle indiscrezioni di possibili contatti tra i due gruppi per un'eventuale fusione che li metterebbe entrambi al riparo dalla crisi dei mercati. Non c'è ovviamente nulla di ufficiale e comunque oggi inoltre General Motors ha rassicurato il mercato dicendo di non aver chiesto aiuto alla Fed e di aver ha detto inoltre che la vendita di Hummer, nonostante le cattive condizioni di mercato, è ancora possibile, rassicurazioni quindi che hanno dato fiducia agli investitori. Bene, tutto per questa parte dedicata alla borsa. In una battuta, Paolo, A2A perché perde così tanto? Perché oggi gli energetici, Enel è andata bene, più 7%, Eni più 4%, il petrolio è fermo, A2A ha perso il 4,6%. Sì, è stato uno scivolone tutto nell'ultima ora e mezza di contrattazioni, non c'è nessuna ragione concreta segnalata dalle sale operative. Ricordiamo che A2A soffre da tempo i problemi e i difficili rapporti tra l'anima milanese e quella bresciana della società. C'è anche da dire che, visto che comunque è un momento in cui le condizioni di mercato sembrano stabilizzarsi e sembra tornato un po' di propensione al rischio e all'investimento azionario, titoli come quelli delle utilities, che sono i più difensivi, sono i primi da cui provengono gli investimenti perché sono stati quelli anche più premiati nelle recenti situazioni di crisi. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Colle Sole 24 Ore. Minuti. Allora, dopo esserci occupati a Focus Economia di, da un lato, l'iniziativa americana, l'ingresso in 9 banche, 250 miliardi di dollari, oggi lo ha annunciato il governo americano, Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon e State Street, insomma i principali gruppi bancari americani. E dopo aver commentato questa buona chiusura di borsa soprattutto a Milano, più 3,6%, anche se a Parigi e in Belgio ad Amsterdam pressioni sui titoli Fortis e Dexia, l'inflazione, l'abbiamo detto, è scesa, è una conferma questa, al 3,8%, ancora molto forti pane e pasta, ma anche latte, formaggio, uova e carne, più 8% il pane, più 24% la pasta, più 7% latte, formaggio e uova. Invece in calo abbigliamento e calzature, spese mediche, alberghi e ristoranti, sotto la media della crescita dell'inflazione. C'è poi la notizia della Germania, di un gruppo di centri studi che dicono: attenzione, la Germania è sull'orlo della recessione. Allora il prossimo tema diventa per forza questa crisi bancaria e finanziaria sta già avendo ripercussioni sull'economia reale, sulle imprese? Primo tema e prima puntata e primo approfondimento oggi. E allora partiamo da chi storicamente, fisiologicamente si indebita per fare impresa e si indebita anche in maniera massiccia e su progetti di medio e lungo termine. Mi riferisco al settore delle costruzioni, 20.000 le imprese associate all'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori dell'Edilizia. E allora Paolo Buzzetti è il presidente, buonasera presidente. Buonasera. Voi oggi avete diffuso un dato: dopo 9 anni di crescita nel settore delle costruzioni, nel 2008 farete un meno 1,1 e anche nel 2009 meno 1,5%. Le chiedo quanto pesa la frenata dell'economia che già era in atto e già era in qualche modo preventivata, e quanto invece state soffrendo con le banche per costi dei prestiti bancari ed eventualmente anche stretta sul credito. Beh, la crisi sull'economia reale, sull'edilizia è arrivata, siamo in recessione, i dati sono esattamente quelli che ha detto lei, più meno 3, cioè c'è un meno 3,7% di investimenti previsti nel 2008 anche nel campo delle opere pubbliche. L'edilizia ha sempre, da sempre, svolto un ruolo anticiclico formidabile nell'economia e lo può svolgere anche questa volta con la rete di infinite migliaia di piccole e medie imprese e più di 2 milioni di occupati. Naturalmente si sentono già i morsi sul credito dell'aumento dei tassi di interesse, ora c'è questa svolta positiva di queste ultime 48 ore per le iniziative che sono state prese, bene l'intervento dello Stato sulle banche e anche sui rapporti tra banche stesse, quindi speriamo che aumenti la liquidità e la possibilità, ma allora la prima cosa importante è, per mantenere acceso il motore dell'edilizia che ha questa funzione anticiclica, è quello assolutamente di non chiudere i rubinetti del credito alle aziende delle costruzioni, alle famiglie prima di tutto sull'aspetto dei mutui, e quindi non far crescere il costo del denaro. Avete segnalazioni in una battuta di vostri associati che si lamentano, che con le banche chiedono di rinegoziare il debito, contratto, aumentano i costi degli interessi in capo al debito o no? Guardi, la tendenza era già in atto, adesso ci auguriamo che con questo cambiamento questa tendenza in atto dell'aumento del costo del denaro, che era inevitabile nella situazione che si era verificata, non si verifichi. È importantissimo per far svolgere all'edilizia, per esempio col piano casa, che ha una grande funzione sociale, che è stato lanciato dal governo per le fasce deboli del paese, così come per il ricorso alle infrastrutture, accelerare sulle infrastrutture per fare occupazione, per fare cose utili per il paese, ma è fondamentale il ruolo del sistema creditizio che vada a non far pesare sulle imprese questi aumenti, diciamo questa bufera che c'è stata e che per il momento adesso appare finalmente sotto controllo. In una battuta, secondo voi vi sarà la bolla immobiliare in Italia o no? No, perché? Perché le famiglie sono state più attente nell'acquisto e sono indebitate molto meno di tutti gli altri esempi degli altri paesi. Abbiamo anche le banche su questo che sono state più attente a concedere i mutui e va riconosciuto assolutamente. Non abbiamo fatto la sovrapproduzione per esempio spagnola, con investimenti negli ultimi 5, 6, 7 anni loro hanno incrementato del 90%, noi solo del 34%. Abbiamo un bassissimo stock in affitto e non abbiamo case sociali ormai da 30 anni, diversamente dalle quantità maggiori, noi il 18% di abitazioni in affitto, per esempio la Germania è il 50,7%, quindi per questi motivi riteniamo che non ci sia un pericolo di bolla immobiliare. Grazie Presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Paolo Buzzetti. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi un altro tema che riguarda la nostra economia reale, i costi altissimi che potrebbe avere il piano europeo che domani verrà discusso sulle emissioni, sull'inquinamento, l'attuazione del protocollo di Kyoto, addirittura quasi 40 miliardi di euro di conto per l'Italia. Allora, mentre alcuni di voi dicono, vedete che il problema non era, adesso tutti invocano lo Stato mentre prima la concorrenza e il libero mercato, non confondiamo due cose diverse. Un conto è la concorrenza tra settori, in Italia alcuni settori sono pochi in concorrenza, altra cosa è stata una deregulation sui mercati finanziari, nessuno controllava e anzi ci sentivamo raccontare che il mercato si sarebbe autoregolato. Così non è stato. Veniamo al tema di domani, perché domani si riunisce a Bruxelles il Consiglio europeo per capire e per decidere come i vari stati daranno attuazione al protocollo di Kyoto. L'Europa propone uno schema che è all'avanguardia, è molto importante, il 20-20-20, cioè da qui al 2020 dovranno ridurre del 20% i vari stati le emissioni di CO2, di anidride carbonica, aumentare le fonti rinnovabili del 20%, ridurre i consumi energetici del 20%. Il costo stimato da Bruxelles per questa operazione è di 60 miliardi di euro l'anno, con i tempi che corrono, è tanta roba. Il costo stimato dal governo per la sola Italia e anche da Confindustria è di 20 miliardi di euro l'anno per la nostra impresa. Stiamo parlando di 1,1 del PIL in meno per aderire, per adeguarsi al protocollo di Kyoto. Preoccupati quindi gli imprenditori, ne abbiamo parlato con Aldo Fumagalli Romario, che è presidente, ingegnere, presidente della Commissione di Sviluppo Sostenibile di Confindustria, anche perché l'Italia ha fatto sapere per voce del ministro Scajola alle attività produttive che non aderirà a questa definizione del protocollo di Kyoto e a questo schema europeo. Oggi Barroso ha detto non c'è però nessuna flessibilità sugli obiettivi, rispondendo in maniera indiretta alle obiezioni e alle resistenze italiane. Dicevano, abbiamo parlato con il presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile di Confindustria, Aldo Fumagalli Romario, a cui abbiamo chiesto in primo luogo perché, diciamo, la posizione e gli obiettivi europei sono così criticati dal mondo delle imprese. Ma noi condividiamo il fatto che il mondo dovrebbe nel suo complesso cercare di fare uno sforzo per ridurre le emissioni di anidride carbonica, quindi l'obiettivo lo condividiamo. Non riteniamo che l'Unione Europea stia adottando il metodo migliore. Perché? Perché la politica europea potrebbe avere una sua logica solo se adottata perlomeno da tutti i più importanti paesi emettitori di CO2. Purtroppo in questo momento è un obiettivo che si è data solo l'Europa, mentre Stati Uniti, Cina, India, e così via non hanno adottato questo schema. Allora lo schema perde molto della sua valenza, perché va a creare costi aggiuntivi molto forti, senza peraltro dare un contributo importante nel raggiungimento degli obiettivi. I costi abbiamo sentito, l'Unione Europea non ha fatto proprio una vera e propria analisi costi-benefici, ha fatto un rapporto e da questo rapporto risulterebbe che l'incidenza delle politiche per raggiungere questi obiettivi peserebbe per circa 60 miliardi di euro all'anno da qui fino al 2020. Però in realtà con un'analisi ben più articolata fatta recentemente dal governo italiano, per la sola Italia risulterebbero costi tra 23 e 27 miliardi all'anno da qui al 2020. Però questi sono solo una parte di costi, perché per esempio, intanto cosa sono questi costi? Allora, se noi dobbiamo sviluppare le risorse rinnovabili in Italia per arrivare al 2020, dovremmo incentivarle bene, sono 50 miliardi di incentivi. Però abbiamo anche dei costi indiretti, perché ad esempio si stima che solo per gli effetti di incentivi e di sviluppo delle rinnovabili avremo un costo aggiuntivo dell'energia elettrica per le aziende che comprano energia elettrica di 25 euro al megawattora, cioè un aumento quasi del 20-25% rispetto a oggi. Bene, allora noi cos'è che chiediamo? Chiediamo che l'Unione Europea che attivi un processo di analisi dettagliato di costi-benefici, quindi ci siano delle clausole un po' di flessibilità perché si possa in corso d'opera tarare la politica. Poi cosa chiediamo ancora? Chiediamo che la direttiva, così come è stata votata nella Commissione Ambiente, venga modificata in alcuni punti nevralgici. Quali sono questi punti? Primo, la direttiva dice che le aziende che emettono dell'anidride carbonica nell'aria dovranno dal 2012 comprare dei bonus, dei crediti in relazione alla quantità di anidride carbonica che buttano nell'aria. Il problema è che come devono comprarlo? La direttiva dice si va all'asta, chi offre di più riesce a comprare. Ora questo meccanismo è un meccanismo speculativo che noi riteniamo profondamente iniquo, che fa solo aumentare i costi alle aziende a vantaggio di chi? A vantaggio di rendite, a vantaggio di speculatori o a vantaggio magari di una parte del mondo finanziario o a vantaggio degli stati, perché una parte degli introiti di queste aste andrebbe agli stati che dovrebbero con questi soldi fare delle politiche attive. Ecco, noi pensiamo che invece sia meglio che le aziende i loro soldi debbano investire in processi innovativi per ridurre le emissioni e raggiungere i target di riduzione della CO2. Un altro elemento importante che noi chiediamo è che le aziende più piccole restino fuori da questa normativa che le penalizzerebbe, e cioè che il limite per essere inclusi in questo meccanismo venga elevato dalle attuali 10.000 tonnellate anno a 50.000 tonnellate anno. E cos'è l'effetto? L'effetto è minimale, perché elimino, tengo fuori dal meccanismo solo una piccola parte di emissioni, il 5% di emissioni totali, ma invece tengo fuori il 75% degli impianti e delle aziende, che sono in questo caso tutte piccole e medie aziende. Ingegnere, abbiamo capito che l'obiettivo è condivisibile, però diciamo che lo sforzo rischia di creare un danno economico di decine di miliardi alle imprese italiane e in generale alle imprese europee per ottenere, voi dite, un risultato tutto sommato non così incisivo. Due domande però che suggeriscono anche gli ascoltatori. La prima: è chiaro che da qualche parte si debba anche iniziare, ma la seconda soprattutto: perché l'Europa va a o si sta dirigendo verso delle linee guida così dure per le imprese? Sembra quasi un atto masochistico. C'è chi ha detto: beh, questo è un impianto, è un modello tedesco, ancora una volta la Germania ha detto le linee guida perché loro hanno grandi imprese, sono meno interessati alle piccole, piccolissime, a differenza dell'Italia, hanno numerose energie rinnovabili e avrebbero qualche beneficio da questo piano. Partiamo dalla Cina, dalla prima domanda. Nel 2007 in Cina sono state costruite nuove centrali elettriche, termoelettriche a carbone prevalentemente, a petrolio, per una capacità in un anno pari a tutta la capacità esistente in Inghilterra. Per dare un altro dato, se anche l'Europa riuscisse a ridurre le emissioni energetiche, le emissioni di anidride carbonica come previsto dalla direttiva, questa riduzione dell'emissione è pari solo a un ottavo, cioè 8 volte inferiore a quella che ogni anno è la emissione aggiuntiva della Cina. Io non sto dicendo che non bisogna cercare di ridurre le emissioni, bisogna farlo però in maniera intelligente. Ma l'Europa va bene che lo faccia, l'Europa ha sempre voluto avere un ruolo di leader culturale, di guardare avanti, di essere rispettosa dell'ambiente, e quindi va bene che prenda anche degli impegni di fronte al mondo per dare l'esempio, però lo deve fare in maniera intelligente, stimolando la riduzione dei consumi energetici. Lei pensi che negli Stati Uniti e anche l'Europa, negli ultimi 35 anni, dal 1975 al 2005, i consumi energetici si sono ridotti di circa il 48%, il consumo energetico per unità di prodotto lordo. E questa è la strada su cui dobbiamo andare avanti. E qui veniamo all'ultimo elemento, l'Italia. L'Italia è uno dei paesi in Europa che ha fatto di più da questo punto di vista, ma l'ha fatto prima degli altri, cioè negli anni 70, 80 e 90, l'Italia ha fatto uno sforzo fortissimo a livello ad esempio manifatturiero, delle industrie, per ridurre i consumi. Quindi oggi i nostri margini di miglioramento sono molto limitati. La UE dice il target per l'Italia sul rinnovabili deve essere del 17% rispetto ad oggi. Non è possibile. Il governo stesso ha valutato che noi possiamo arrivare al massimo a un target del 14%, perché abbiamo dei limiti fisici. Noi quello che chiediamo è che il Parlamento, il governo europeo tenga conto di queste cose e prima del voto del Parlamento europeo si intavoli una discussione trilaterale tra Commissione, Parlamento e Consiglio che ripensi un attimo questi meccanismi. E anche gli altri paesi, è vero che magari all'inizio qualcuno, perché aveva da guadagnarci con le proprie industrie già magari molto avanti in termini di risorse rinnovabili, davano una politica più favorevole su questa direttiva, ma ultimamente si stanno preoccupando tutti, anche visto il contesto attuale di crisi in cui siamo immersi, e finanziaria, ma con elementi anche forti sulla crisi dell'economia reale, stanno anche loro modificando la posizione. Ecco, quindi per concludere, ingegnere Fumagalli, è vera o non è vera, in una battuta, l'ipotesi che sia, diciamo, un piano un po' troppo favorevole al modello industriale e anche al modello energetico della Germania? Vero o falso? Direi che quando ci sono, diciamo, direttive come queste a livello europeo, ogni paese fa un pochino la sua lobby, no? L'importante è che poi gli interessi singoli vengano, trovino una sintesi coerente e corretta nell'interesse di tutti. Questa è la nostra intervista a Aldo Fumagalli Romario, appunto presidente della Commissione Sviluppo Sostenibile di Confindustria. Insomma, l'obiettivo è importante per tutti, ridurre le emissioni di CO2, però se è vero che con questo sforzo in un periodo di crisi che costa un punto e passa di PIL all'Italia e 60 miliardi all'Europa, si arriva a ottenere il risultato di un ottavo di quanto è l'aumento di emissioni ogni anno della sola Cina, forse è il caso di non farci troppo male da soli in un periodo in cui l'Europa va in recessione economica e in cui la Commissione Europea stessa dice si possono anche allentare i criteri di Maastricht. Staremo a vedere, domani se ne discute a Bruxelles. Per ora è tutto. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.